Italia in controluce. Buongiorno, oggi è l'8 di dicembre, un'unica edizione di Italia in controluce alle 13.30. Vi parla Daniele Biacchese. Silvia Calamandrei è nipote di Piero Calamandrei. Proprio in questi giorni Chiare Lettere fa uscire un importante libro di suo nonno, Lo Stato siamo noi, in cui si dice che politici, deputati e senatori si dovrebbero chiamare impiegati del loro partito. Sì, è uno scritto, una noterella sul professionismo parlamentare scritta da Calamandrei negli anni 50. Calamandrei si preoccupava che i deputati e senatori eletti rappresentassero effettivamente i loro elettori. Già negli anni 50 c'era una preoccupazione che la politica non diventasse professione staccata dalla rappresentanza democratica. Ora nel terzo millennio ci troviamo con una casta della politica che si è consolidata e che suscita parecchie preoccupazioni nei cittadini. Ma lo Stato siamo veramente noi cittadini e cosa possiamo fare per migliorarlo? Ma diciamo che lo Stato siamo noi è una auspicio, una petizione. Calamandrei sottolinea l'elemento della partecipazione alla politica, si preoccupa sempre della disaffezione, del pericolo dell'indifferentismo e chiama i cittadini a una partecipazione, a una consapevolezza di quelli che sono i propri diritti iscritti nella nostra Costituzione. Calamandrei vedeva la Costituzione come un patto nato da una grande stagione di risveglio del popolo italiano alla libertà e voleva che queste libertà conquistate con la Resistenza e nella guerra antinazista diventassero, diciamo, sangue degli italiani. Si augurava anche che la scuola educasse a questa partecipazione alla cittadinanza. Pensava che la scuola fosse l'organo più importante tra quelli della Costituzione, perché è una scuola che dovrebbe offrire gli strumenti per rimuovere tutti quegli ostacoli alla disuguaglianza tra i cittadini e creare consapevolezza, coscienza per poter usufruire dei propri diritti. Di Piero Calamandrei si ricordano molte cose, si ricorda per esempio una targa che è stata posta in vari luoghi d'Italia, per esempio al comune di Cuneo, poi è stata fissa anche a Montepulciano, a Sant'Anna di Stazzema, vicino a dove i nazisti organizzarono e pianificarono una delle più violente e terribili strage contro i civili, che è lo Avrai Camerata Kesselring. Sì. È una delle lapidi più famose di Piero Calamandrei. Quello che mi fa piacere è che ancora queste sue parole incise nella pietra sono incise nella memoria e soprattutto circolano in rete. Ci sono tanti anche giovani che le riprendono sui propri blog e li riprendono a volte anche in dei cartelli, in degli striscioni che vengono portati nelle piazze. E è una lapide che fu scritta per Cuneo, per Duccio Galimberti, ed è una sfida a Kesselring, che voleva in quella fase, negli anni 50, veniva tendenzialmente riabilitato per i suoi meriti militari in Germania, e Calamandrei ricordò appunto le stragi in Italia. Ce ne sono tante altre, c'è una bellissima lapide per la libertà di Firenze scritta nel 44 che affissa proprio su Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria. Calamandrei accorse nella Firenze liberata e tenne uno dei primi discorsi come rettore dell'Università Fiorentina, ricordando tutti i giovani che avevano partecipato alla battaglia di Firenze. Quanto sono ancora importanti e attuali le idee di suo nonno? Quello che mi fa piacere è che ancora ci siano tante riedizioni, pubblicazioni, e come custodi di una parte dell'archivio qui a Montepulciano, alla biblioteca archivio che conserva le sue carte più private, ci stiamo coordinando con altri archivi, quello di Firenze, quello di Roma e quello di Trento, dove si conservano le sue carte della partecipazione alla Grande Guerra, per cercare di mettere tutto in rete, di digitalizzare, di rendere fruibile questo patrimonio. C'è un patrimonio anche di scritti giuridici, forse coloro che studiano legge conoscono il Calamandrei giurista, i costituzionalisti fanno riferimento ancora molto a lui per il pensiero costituzionale. Calamandrei è anche uno scrittore umanistico, c'è l'inventario della casa di campagna in cui descrive il paesaggio toscano, e recentemente abbiamo ritrovato anche un suo discorso molto interessante fatto negli anni 50 a Londra sul patrimonio artistico e culturale italiano e i danni di guerra che aveva subito, e Calamandrei diceva in questa conferenza: tutti questi beni artistici, tutti questi documenti che noi conserviamo in Italia sono beni comuni, beni dell'umanità che dobbiamo conservare, non li dobbiamo considerare un patrimonio in senso merceologico, li dobbiamo considerare come pezzi di memoria dell'umanità. E credo che il discorso che si fa oggi sui beni comuni, che è stato fatto per il referendum sull'acqua e sull'energia, in qualche modo alcune delle parole di Piero Calamandrei ritornano attuali. Tra le tante frasi ricordo anche quella che riguarda la Costituzione italiana, dice: non è una carta morte ma un testamento di 100.000 morti. E poi c'è il passaggio sulla resistenza, i luoghi delle montagne dove caddero i partigiani. La Costituzione oggi, quella Costituzione che aveva contribuito a scrivere anche suo nonno, oggi quanto è attuale? La Costituzione sono in questi ultimi decenni continuamente si vuole modificarla, distruggerla, dire che è una carta vecchia, una carta morta, però gli italiani quando sono stati chiamati a votare nell'ultimo referendum nel 2006 e poi se la vollero tenere, hanno dimostrato che gli era ancora cara questa Costituzione. In quei pochi giorni fa c'è stato un magistrato che ha detto di considerarsi partigiano della Costituzione, ha suscitato molto scandalo, ma non c'è da scandalizzarsi, i nostri giudici sono interpreti della Costituzione, la Costituzione, diciamo, per Calamandrei erano le leggi di Antigone, le invocò nella difesa di Danilo Dolci nel 1956 dicendo: giudici, voi dovete giudicare in nome della Costituzione, è come una legge più profonda a cui dobbiamo fare riferimento, e chissà che gli italiani non se ne riapproprino. Avete ascoltato la voce di Silvia Calamandrei, la memoria del nonno Piero Calamandrei. La seconda edizione Italia con Tucci termina qui, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.